L'inizio. La fine dell'inizio. Sole tiene calde le stanze, numero sopra la pelle, spiega l'accorciarsi delle distanze. Le facce sono i contratti di chi si perde in discorsi, come da piccolo sopra le spiagge. I castelli sono i rimorsi nei miei ricordi, tristi, sentirsi liberi parlando ai sordi. Ci ho visti parlando a un tavolo e mischiando i corpi. Fissi, siamo due assi speculari capofose. Le pareti sono materia che ci blocca, ma l'anima che scotta fonde i vetri. Mentre parli l'aria che viene mossa, rivelando segreti, dice che non sbagli. Giornate vuote riempite nell'ascoltarti, non so come fare a dimenticarti. Dicono che forse non potrei, forse non vorrei, forse direi che adesso è meglio non pensarci. Toppe di cuore che si scucciano, bagnando pagine di frasi che deducono un pensiero in ferme immagini. È da ieri che i miei bisogni le rubano. Non è un bisogno materiale, vivo con il vapore che si modella. Confessioni che si scusano, devo per forza argomentare il calore che le cancella. Dopo quel fiato le parole si fusero. Non posso dire di essere onesto, sarei bugiardo. Tradirei spesso le mie linee sul palmo. Dicono come, dove e quando, la fine la so. L'incognita di come arrivarci la sta ancora aspettando. Quando parlare con te diventa malattia, ho capito di oltrepassare il limite tra scienza e magia. Tu sei la musica dedita alla mia via, e tolta a te rimane solo poesia.